La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla speciale iniziativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Canti e Poesie per un'Italia Unita, l'opera di poeti e musicisti che tra il 1821 e il 1861 con cori si sono fatti interpreti del desiderio di patria degli italiani non ancora raccolti sotto un'unica bandiera. Ospite ai nostri microfoni il curatore del volume e presidente dell'Associazione Amici dell'Accademia, Pierluigi Ridolfi. Il 17 marzo, giorno dedicato all'Unità Nazionale, l'Accademia dei Lincei ha distribuito gratuitamente a tutti i visitatori di Villa Farnesina a Roma, in via della Lungara, sede di rappresentanza dell'Accademia, il volume e il CD Canti e Poesie per un'Italia Unita, curato dal presidente dell'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei, Pierluigi Ridolfi. Il CD è stato realizzato da un coro di giovanissimi ragazzi delle scuole di Roma e raccoglie l'opera di poeti e musicisti che tra il 1821 e il 1861, con cori e inni, hanno interpretato il desiderio di patria degli italiani, non ancora uniti sotto un'unica bandiera. La prefazione è del Presidente Emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. All'indomani del Congresso di Vienna, quella che noi oggi chiamiamo Italia fu divisa in una decina di stati, ridottisi nell'arco di pochi anni a 7 per effetto di successive annessioni: il Regno di Sardegna, il Regno Lombardo-Veneto, il Granducato di Toscana, il Ducato di Modena, il Ducato di Parma, lo Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie. Era una divisione artificiale che accese la reazione di una nuova classe politica cresciuta negli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese e che ebbe in Giuseppe Mazzini il principale esponente. In quegli anni cominciò a prendere forma l'aspirazione a un'Italia unita dalle Alpi alla Sicilia, perché così voleva la nostra storia millenaria. Lo imponeva la lingua, lo giustificava la comune cultura. Nel processo che trasformò il movimento nazionalista da una dimensione elitaria a fenomeno popolare, svolsero un ruolo non marginale i canti che inneggiavano alla liberazione dalla dominazione straniera e all'unità d'Italia. Tra i canti che accompagnarono il Risorgimento ve n'è uno che, come si legge nel volume, era composto da parole apparentemente senza senso, la Bella Gigogin, che ebbe una funzione importantissima nel guidare i milanesi nella loro rivolta contro gli austriaci. Abbiamo in linea il professor Pierluigi Ridolfi, che ha curato il libro e il CD che ha ispirato la nostra trasmissione odierna. Professor Ridolfi, ci spieghi qual è il senso di questa iniziativa che si colloca nelle molteplici iniziative appunto in corso per celebrare i 150 anni dell'Unità Nazionale? Ecco, innanzitutto riassumo cosa abbiamo fatto. Abbiamo raccolto in un volume una ventina di canti e di poesie dal 1821 al 1861, il periodo, insomma, più caldo, quello con il quale è stata realizzata in Italia. Perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo voluto ricordare il contributo dei tanti giovani che hanno dato la vita, hanno dato l'entusiasmo per creare l'Italia. Non è un fatto retorico. Quando noi pensiamo ad esempio che Mameli ha scritto l'inno degli italiani, quello che è diventato il nostro inno nazionale, aveva 20 anni, e è difficile pensare che fosse un fatto retorico, veramente ci credeva alle cose che diceva, tant'è vero che poi la vita l'ha data veramente, l'anno dopo è morto sul Gianicolo. Abbiamo anche cercato di interpretare queste canzoni con un coro di bambini, un coro di giovani di una scuola romana, 60 ragazzi che hanno cantato queste canzoni un po' come le cantavo io quando ero elementari. Queste cose per me sono vita vissuta. All'elementare una volta queste cose si cantavano, adesso non si cantano più. Abbiamo creato questo libretto e abbiamo creato questo CD anche per ricordare alle scuole italiane che si possono cantare queste canzoni nelle scuole. Lei, professor Ridolfi, poco fa faceva riferimento a un aspetto che non è molto conosciuto ma che altresì è molto importante. Ed è stato trasferito alla nostra attenzione anche grazie all'esegesi televisiva dell'inno di Mameli di Roberto Benigni. Il fatto cioè che il Risorgimento sia stato prevalentemente opera di giovani, di ventenni. Tutti i personaggi che hanno fatto l'Italia erano giovani, il re Vittorio Emanuele era giovane, aveva 30 anni, Cavour nel momento del fulgore ne aveva 40, Mameli ne aveva 20, Mercantini ne aveva 21, tutti personaggi veramente giovani, ad esempio Bosi, nome non è tanto noto, però la sua canzone più celebre è Addio mia bella addio, che ricorda i volontari che da Firenze nel 48 sono andati a combattere nel nord. Ecco, aveva 25 anni quando ho scritto questa canzone, dunque tutti giovani, dal re ai nostri patrioti. Garibaldi stesso non era anziano, no? Quando ha cominciato a muoversi con energia nel 48, nel 49 e così via, e questo lo vogliamo ricordare, e l'Italia è stata fatta molto dai giovani. Nella sua introduzione lei, professor Ridolfi, ricorda che un canto, La bella Gigogin, ebbe una funzione molto importante nel guidare i milanesi contro gli austriaci nella loro rivolta. Ecco, che funzione ebbero in genere i canti e le canzoni popolari nel nostro Risorgimento? La bella Gigogin è un fatto veramente emblematico, è una canzone senza senso, quasi demenziale, però è successo un fatto così buffo. Nella notte di Capodanno, tra 52 e 59, fu stata cantata in teatro e per qualche accenno al giallo, al nero, che sono i colori della bandiera austriaca, gli ufficiali austriaci che erano in sala si sono un pochino inquietati. Questo ha eccitato il pubblico, i quali l'hanno cantata e ricantata e ricantata 8 volte, no? Con gli ufficiali austriaci che erano sempre più arrabbiati. Poi è finita la festa, ma non è vero, perché persone, pare 4.000-5.000 persone, si sono poi radunate sotto il palazzo del governatorato cantando a sfottere questa Dragala avanti un passo, che voleva proprio significare che l'Italia si deve muovere contro gli austriaci. Per cui fatto così abbastanza buffo, ma però che dimostrava una inquietudine che era nell'animo e che poi esplose in questo modo, se vogliamo, di canzonetta. Tant'è vero che poi ha preparato la strada alle giornate, alle 5 giornate di Milano, insomma. Come lei ricorda nell'introduzione del libro, del CD, professor Ridolfi, compaiono anche delle canzoni in dialetto siciliano che ci riportano a un tema fondamentale, cioè quello della partecipazione popolare all'Impresa dei Mille. Aspetto forse da riconsiderare, poiché spesso si tende a considerare appunto il Risorgimento come atto prevalente di un'elite. Invece ci fu una grande partecipazione popolare. Purtroppo purtroppo sono note le parole, che sono molto belle, sono molto simpatiche, non è nota la musica, non è passata dopo 150 anni, non sappiamo, immagino forse delle ballate, no? E questo è un peccato, perché le parole dimostrano veramente l'entusiasmo che il popolo, i contadini avevano verso questa persona, Garibaldi, un Gesù Cristo veniva paragonato, no? Che era venuto a portargli la libertà, a togliere dal latifondo in cui avevano vissuto per tutti gli anni precedenti. Il libro ha la prefazione del presidente Ciampi, il quale ha contribuito moltissimo, no? E ha dato veramente un messaggio di fiducia e di sprone per tutti quelli che stanno operando in questo campo. Professore, molte grazie e complimenti per la vostra iniziativa. Grazie a lei.